Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1817. A Macerata e Roma rivolte contro il potere del Papa ad opera di gruppi di carbonari. Protesta contro la restaurazione per una Germania unita fa lodi libri nel festival di Wartburg. I rivoluzionari cileni vincono la battaglia, spagnoli sconfitti, indipendenza di fatto conquistata. Scompare una grande scrittrice, Madame de Staël era da poco tornata a Parigi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. L'ostilità al clima della restaurazione sembra prendere corpo, soprattutto nello Stato Pontificio e in particolare tra Marche e Umbria. Una congiura organizzata da gruppi di cosiddetti carbonari è stata sventata dalla polizia pontificia. Centinaia i fermi, mentre una cinquantina sono stati gli arresti. Ma chi sono i carbonari? Sentiamo. Il nome ha origini francesi e risale a quando, prima della rivoluzione, alcuni sodalizi politici si nascondevano sotto le vesti di apparentemente innocue associazioni di lavoratori. Ma c'è anche una radice inglese legata alla nascita in quel paese della massoneria. In Italia l'idea della carboneria è arrivata dal sud con gli ufficiali di Murat e si è diffusa rapidamente. I gruppi sparsi nei vari stati della penisola, secondo gli inquirenti, hanno una suddivisione territoriale nella quale ogni nucleo si chiama baracca e ogni territorio che comprende più nuclei vendita. Tra loro i cospiratori si chiamano buoni cugini. L'organizzazione è rigidamente gerarchica, i ruoli vanno dall'apprendista al maestro al gran maestro e l'adesione a questa società segreta comprende complessi rituali di iniziazione e la fedeltà assoluta pena la morte. Dal punto di vista politico si tratta di un movimento che mira a una maggiore libertà rispetto all'assolutismo che il congresso di Vienna ha ripristinato. Dopo Macerata sembra che le polizie del Papa, degli austriaci e dei Borbone siano sulle tracce di nuovi aderenti. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Contro gli ex dominatori francesi, ma anche contro la restaurazione, gli studenti della prestigiosissima Università di Jena in Germania hanno organizzato un festival e una marcia al castello di Wartburg, che fu il rifugio di Martin Lutero. Chiedono uno Stato nazionale e una Costituzione liberale. I giovani hanno anche dato fuoco ad alcuni libri considerati reazionari e a simboli napoleonici. Il Cile non ha ancora dichiarato ufficialmente l'indipendenza, ma la rivolta contro gli spagnoli è arrivata ad una svolta decisiva con la vittoria nella battaglia di Chacabuco grazie alle forze congiunte del generale argentino José de San Martín e quello cileno Bernardo O'Higgins. Era appena tornata a Parigi dopo le tensioni vissute con il governo napoleonico e il sostanziale esilio a cui era stata sottoposta. È morta nella città nella quale è nata l'intellettuale franco-svizzera Madame de Staël al secolo Louise Germain Necker. Fulgida esponente del romanticismo, ruppe i suoi rapporti con l'impero all'atto della pubblicazione del suo testo dell'Allemagne. Il libro fu sequestrato in tutta la Francia. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento là, oppure fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.